spiaggia, sole, libro nel mio cielo. Non mi importa di cadere, ma mi risveglio sempre nel mio ufficio. Distratto guardo il mondo dietro un vetro e mi sembra di sentire voci confuse e sento che ritorno. Essere umano in mano o un abiro e riprendo a respirare. Mi guardo intorno e tutti hanno un volto, lo stesso sguardo attonito sul mio viso. La cravatta stretta al collo, io sto illustrando un grafico frastagliato. Sorridere ma non mi importa, mentre dentro me è un aerone, nel vento vola libero e se ne va, nel cielo immenso libero verso il sole. A volte penso e immagino essere solo, l'unico sulla terra che cammino, e mi sembra di impazzire, ma mi risveglio presto in uno stadio che non ricordo per chi faccio il tifo. La bandiera nella mano sventola un sogno, quello del delfino che sfreccia nel suo mare in pieno agosto, nel bel mezzo del nuotare. Trovo in mezzo al traffico e faccio un bagno, nel mio sudore prego verso un vecchio che senz'altro avrà ragione, perché la voglia ondeggia nel mio cuore e non voglio più parlare, neanche dormire fame non ne ho, ma perché devo correre. Tira presto si spezzerà.